in primo piano. La notizia meglio approfondita, meglio analizzata, più sviluppata dai giornali è quella dell'attacco al Papa per quel che riguarda la pedofilia nella Chiesa. Silenzio sugli abusi, attacco al Papa, questo è il Corriere della Sera. L'attacco viene dal New York Times, lo abbiamo detto ieri. Repubblica, pedofilia, accuse al Papa dagli Stati Uniti. Segreti e bugie, questo è il titolo dell'Unità in prima pagina. C'è la foto di un sacerdote di spalle. Ci sono invece giornali che aprono sulla politica, oggi francamente molto noiosa. Il Sole 24 Ore, l'apertura finanziaria intesa sugli aiuti alla Grecia. Il patto franco-tedesco prevede prestiti bilaterali dell'Unione Europea e un pacchetto del Fondo Monetario Internazionale. Vedremo qualcosa anche di politica, ma come detto l'attacco duro, frontale del New York Times, che ha scritto ieri sulla segnalazione di alcuni legali di soprattutto di due persone abusate, Arthur Budinski e Gary Smith, negli anni dal 60, diciamo. L'attacco è questo: il Papa sostanzialmente sapeva, Ratzinger coprì un prete pedofilo quando era cardinale. Una vicenda che affonda nel Wisconsin, a Milwaukee, dove un padre, tale Lawrence Murphy, per anni, dal 50 al 74, lavorò in una scuola per bambini sordi, non udenti, e abusò di tantissimi di questi bambini, ma nessuno, secondo il New York Times, le autorità ecclesiastiche e la polizia, fece nulla. E l'accusa è quella di un insabbiamento anche da parte dell'allora cardinal Ratzinger e dell'allora cardinal Bertone, vale a dire il Papa e il segretario di Stato Vaticano attuali. Non insabbiamo, ma la sensibilità è cresciuta nel tempo. Questa è un'intervista, l'intervista più interessante, che Gianguido Vecchi fa a Monsignor Gianfranco Girotti, che ha partecipato a quelle riunioni allora in cui si discusse di questo reverendo americano Murphy, e dice Monsignor Girotti: guardi, parlare di insabbiamento è davvero assurdo, un polverone, non è dico mai, ma dico mai stata la politica della congregazione, tantomeno di il cardinal Ratzinger, si figuri. Allora l'accusa è di non aver agito, perché? Perché il reverendo Murphy stava morendo, e infatti morì di lì a pochi mesi. A che scopo ormai? In questi casi si limita il male. L'essenziale è questo: che alla persona non sia data la possibilità di fare del male. Insomma, in isolamento non poteva continuare. Sull'atteggiamento di Ratzinger dice Monsignor Girotti: lui era inflessibile dinanzi al peccato, pur avendo un'attenzione particolare per le persone, che tuttavia nei provvedimenti non gli impediva di essere intransigente nel perseguire ogni reato. Sui processi cosiddetti segreti, chiede Gianguido Vecchi, Monsignor Girotti dice: è chiaro che la Chiesa non possa mettere in piazza certi processi, ma questo a tutela delle persone coinvolte. Non si può rovinare la reputazione di chi magari potrebbe poi risultare innocente. Insomma, sta di fatto che l'attacco è frontale. Le accuse vengono respinte, tanto che su Avvenire, in prima pagina, Marina Corradi parla di un attacco molto duro. Un simile attacco sulla prima pagina di uno dei più autorevoli quotidiani americani è una cosa che fa pensare, scrive. È un piegare quasi con la forza i fatti a una tesi che sembra precostituita. Uno scopo preciso: attaccare nella persona del Papa la Chiesa. Di diverso tenore è il fatto quotidiano in prima pagina. Pedofilia, bufera sul Papa, si legge in taglio centrale. L'apertura è su Santoro, la notte della Rai liberata, ma c'è Marco Politi, il vaticanista del Fatto, che dice: ora il Vaticano apre gli archivi, c'è una sola risposta che Papa Ratzinger può dare ora che il bubbone dell'insabbiamento e degli abusi raggiunge il centro del governo della Chiesa: aprire, fare trasparenza nelle migliaia di casi approdati al Sant'Uffizio. Papa Ratzinger può scegliere di ignorare il passato, oppure può decidere, scrive Marco Politi, di andare fino in fondo nella politica della trasparenza. Durissimo anche Giuliano Ferrara sul Foglio, ma durissimo nei confronti degli attacchi. Parla, invece prende la difesa, insomma, della Chiesa. Dice: il caso Murphy può essere usato in modo semplicemente scandalistico, come scandalistica è la sintesi dell'articolo dei commenti del New York Times, oppure no. E poi dice Ferrara: secondo me, ma lo dico in tutta modestia, la Chiesa fa bene, nel solco della lettera del Papa al clero irlandese, a mettere oggi l'accento sulla colpa anche legale, costituita dai comportamenti pedofili. Probabilmente la Chiesa dovrà anche dotarsi di strumenti ispettivi e canonici, ma non credo che i laici credenti, le suore, i preti, i vescovi, i canonisti, i teologi, i prefetti di curia e i papi potranno mai rinunciare a trattare il peccato come peccato, il pentimento come porta aperta al perdono e all'espiazione cristiana, trasformandosi in macchine di burocrazia penale al servizio dei tribunali che devono invece indagare sui reati e sanzionare i crimini. La Chiesa dovrebbe cominciare a dire, senza complessi, apertis verbis, scrive Ferrara, e spiegare che la sua identità è legata a un'idea del peccato che è individualizzata, agisce caso per caso, non sopporta le leggi uguali e indifferenti all'anima di ciascuno, tipiche del diritto positivo. Insomma, la Chiesa dovrebbe dire che il castigo penale, legittima aspirazione dei tribunali dello Stato, è un granello di sabbia disperso nel vento a fronte del meccanismo di imputazione divina che porta alla consapevolezza del peccato, al libero pentimento di coscienza, all'espiazione, al perdono o assoluzione dello specialissimo diritto che si realizza nella cura delle anime. Insomma, i commenti sono tantissimi, ora c'è il fronte anche italiano che si sta aprendo, il Corriere, squadra antimolestie voluta dai vescovi per agire insieme, cioè che succede? La CEI ora si sta interrogando e secondo sempre Gian Guido Vecchi una commissione antipedofilia sarebbe insomma sul punto di nascere, composta da vescovi ed esperti. Ecco ciò che filtra nel Consiglio Permanente che si è chiuso ieri, avrà l'incarico di studiare un fenomeno così complesso. Insomma, i casi anche in Italia, soprattutto si concentra sulla vicenda dell'Istituto per Sordi Antonio Provolo di Verona, scrive il Corriere, a pagina 5, con 67 bambini, e le denunce, addirittura denunce nei confronti di 25 dei 28 sacerdoti che hanno prestato servizio negli anni, in questo caso dagli anni 50 al 1984, proprio in questo istituto. Ripeto, la vicenda è molto dibattuta, il trauma e il coraggio è anche l'editoriale di prima pagina del Corriere di Pierluigi Battista dedicata a questo argomento. Potete trovare tantissimo e leggere qualcosa che sicuramente è molto interessante e molto dibattuto oggi sui giornali. Rimanendo in tema di Chiesa, ma non c'entra nulla, però voglio citarla perché sulla prima pagina del Sole 24 Ore il direttore Gianni Riotta intervista il Cardinal Martini. L'intervista è molto interessante perché si parla di che cosa? Delle tecnologie, di internet, di Facebook, di Wikipedia. Lungo viaggio su internet dalle parole alla parola, la parola quella con la P maiuscola. È il Cardinal Martini che dice al direttore Riotta: uso spesso Wikipedia, mi aggiorno cercando di usare il computer, vedo piuttosto il lato positivo, si capisce che si può usare male di questo fatto e quindi creare una democrazia che non sia uguaglianza di tutti ma attitudine negativa verso alcuni, però gli usi sbagliati, sempre possibili, non tolgono importanza agli usi buoni. Così come il Cardinal Martini dice: cerco per esempio che cosa su internet? La spiegazione di tutte le persone o i nomi che non conosco, anche geografici. Poi uso molto l'email, ne ricevo anche troppe, sono come sommerso, allora non tiro sulla testa facilmente, ma trovo la possibilità di comunicare con molte persone in tanti luoghi del mondo. Insomma, un'interessante intervista di Carlo Maria Martini, il Cardinal Martini che parla di internet, di tecnologie, di come si rapporta con le tecnologie oggi. Come detto, la politica francamente è davvero noiosa, oltre che il presidente di Confindustria Marcegaglia è stata anche più dura, a pagina 7 del Sole ha parlato di politica violenta, di una politica che non ha alcun interesse per il paese reale, insomma invitando poi alle riforme dopo il voto, insomma concentrarsi sulle cose concrete. Che troviamo sul giornale? Berlusconi mette in croce l'UDC, è un voto inutile. Per Repubblica il Cavaliere straripa in TV e quindi sono arrivate le multe della Gcom, 100.000 euro al TG5, alla RAI, che poi alla RAI quindi la pagheremo noi, no? Sostanzialmente. Per la questione delle sue interviste a Uno Mattina al TG5. Belpietro dice su Libero: non possiamo per una legge stupida dare i sondaggi, ma ecco, qui il PDL può vincere. Libero dice: secondo, oltre a Lombardia e Veneto che sono certe, Campania e Calabria probabili, si può vincere in Piemonte, Lazio, Liguria e Puglia. Accidenti, insomma, sono otto. C'è una foto di Di Pietro che campeggia in prima pagina di Panorama. Di Pietro ha già querelato Panorama, o comunque annunciato di farlo. Di Pietro e il mafioso. Questa è la foto esclusiva, prima pagina di Panorama. Di Pietro è ritratto nel 2003 con in Bulgaria con Tale in una cena. Si riconoscono lui e, secondo Panorama, si riconosce anche Ilya Pavlov, che poi, sei mesi più tardi, è stato ucciso a Sofia in Bulgaria e che viene considerato, viene descritto da Panorama come un esponente, insomma, della criminalità organizzata. Panorama accusa Di Pietro, foto con boss bulgaro, viene ripreso anche dal Corriere della Sera. C'è la storia che ha solo il Corriere con Luigi Ferrarella di una presunta tangente per alzare il prezzo di un farmaco di una casa farmaceutica che la Ferring, che avrebbe dato per questo una tangente di 100.000 euro all'ex sottosegretario Cesare Cursi del PDL, oggi responsabile, senatore responsabile della sanità per il partito, e che per questo la procura di Milano vuole indagare. Tangente per alzare il prezzo di un farmaco, senatore PDL indagato. Questo si legge a pagina 14 del Corriere. L'unico sussulto, poi, per come la pensate non lo so, è l'intervista di Pietro Ingrao. Riccardo Barenghi è andato a intervistare Pietro Ingrao, che fa 95 anni e che dice così: voterò la Bonino, voterò per Vendola anche perché è gay, su Berlusconi è un reazionario di bassa lega. Insomma, durissimo Ingrao. Come definirebbe il suo secolo di vita il secolo di Hitler? Si considera ancora comunista? Certo, il mio colore è sempre il rosso. E una cosa di cui si è pentito, una su tante, la prima pagina dell'Unità, di cui ero direttore, dedicata alla morte di Stalin nel 53, una pagina terribilmente agiografica. Parla a Riccardo Barenghi sulla Stampa Pietro Ingrao, in questo caso si può dire il grande vecchio, 95 anni, martedì prossimo, della politica. Allora, il traffico, poi continuiamo con la lettura dei giornali. In primo piano. Prima, tra l'altro, ho citato l'intervista al Cardinal Martini dedicata alla tecnologia, fatta da Gianni Riotta sul Sole 24 Ore. Ebbene, voglio anche segnalare che è in edicola oggi il nuovo numero di 24, allegato appunto al Sole 24 Ore, dedicato proprio alle tecnologie, in questo numero monografico, le tecnologie che tra 20 anni, o forse anche prima, ci cambieranno la vita, come cose che ho letto anche interessanti: la benzina estratta dall'aria catturando il carbonio, o il bisturi che sfrutta energia solare, le biostampanti di organi, insomma, tutto questo su 24 in edicola. Il numero è dedicato alle tecnologie, tutte le tecnologie che ci cambieranno la vita. Rimanendo sul Sole 24 Ore, intesa sugli aiuti alla Grecia, questa è l'apertura di prima pagina, come detto, vale a dire il tema su cui si interroga l'Europa: come salvare dalla crisi finanziaria Atene. L'Europa ha trovato un accordo sul salvataggio della Grecia, un'intesa raggiunta ieri in serata dai capi di Stato e di Governo dei 16 paesi dell'Eurozona, dopo anche la tensione. Prevede un sostanzioso finanziamento del Fondo Monetario Internazionale, che era una delle condizioni poste dalla Germania. L'intervento sarà affiancato da prestiti bilaterali volontari e coordinati degli stati membri dell'euro. Si legge tutto comunque da Adriana Cerretelle a pagina 3 del Sole 24 Ore. Per quel che riguarda la cronaca, c'è ancora molto di questa vicenda, due vicende inquietanti. Una, quella del ritrovamento di Elisa Claps, questa ragazza scomparsa anni fa, davvero degli sviluppi incredibili, ritrovata nel il corpo mummificato praticamente nella chiesa di Potenza. Ora si è scoperto il corpo, denunciata la scoperta qualche giorno fa, ma in realtà da mesi prima si sapeva che era lì. Il vice parroco sapeva, Corpo scoperto da mesi, scrive il Corriere della Sera, ma anche Repubblica, l'arcivescovo, tra l'altro l'arcivescovo di Potenza, che i familiari di Elisa Claps tirano in ballo, cioè dicono al Corriere della Sera: questa vicenda è incredibile, è una vicenda che dopo queste ultime rivelazioni, dicono i familiari, sento puzza di sacrestia in questa vicenda. Insomma, accuse molto dure. Il vescovo di Potenza, Monsignor Superbo, in un'intervista ieri aveva annunciato una conferenza stampa col questore, poi la conferenza stampa è stata annullata. Ha detto: io non sapevo nulla, ho saputo del ritrovamento il 17 marzo e immediatamente ho chiamato la polizia. Tutto il resto sono speculazioni. Ma come c'è molto anche della vicenda della morte di Cafasso, vale a dire il pusher del caso Marrazzo, e l'accusa nei confronti del maresciallo dei carabinieri Testini, l'accusa di omicidio volontario, cioè un'accusa pesantissima, avergli fornito una droga tagliata male per ucciderlo, perché testimone scomodo. Goffredo Buccini del Corriere è andato a cercare questo maresciallo Nicola Testini, maresciallo dell'arma, sospeso a metà stipendio fino a una più che probabile radiazione in arrivo. È andato nel paese in Puglia dove si trova, è andato sostanzialmente a qualche stralcio di voce della moglie, la moglie Maria Rosa, avvocato, consigliere tra l'altro per il PD al comune di Adelfia, che urla: cosa sta succedendo, spiegatemi che succede. Poi evidentemente c'è chi pensa che non siamo per bene, per cui c'è questo accanimento. Insomma, il paese che reagisce, dice: una famiglia illibata, gente di caserma, padre, zii, dal papà, insomma un paese che difende il maresciallo Nicola Testini, ma le accuse sono pesantissime. Voglio andare alle segnalazioni conclusive. Oh, ce l'ha fatta Veltroni, pare ce l'abbia fatta. Aveva chiesto la riapertura del caso Pasolini al ministro Alfano, perché ha detto: ci sono troppi dubbi sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Ebbene, il ministro Alfano: chiedo nuove indagini sulla morte di Pasolini. Lo fa rispondendo a questa lettera, con una lettera a Veltroni sul Corriere della Sera. Una lettera di Veltroni era sul Corriere, e Alfano dice: sono d'accordo, non è mio potere da ministro, non è il mio potere diretto riaprire le indagini, ma inoltrerò al procuratore della Repubblica di Roma un'apposita istanza in tal senso. Chiedo nuove indagini sulla morte di Pasolini. Questo Angelino Alfano. Permettetemi di chiudere sorridendo. Il secolo XIX, la storia. Momento drammatico il divorzio. Crollano gli affetti, si litiga su affidamento e soldi, si spezzano i legami e possono mancare anche le tette. Come? Ma sì, bando al pudore, succede questo. A Parma, lui 37 anni, lei 36, una bella coppia, lei da un paio d'anni ha una marcia in più. Sposati per un lustro, l'ex marito gli aveva regalato la mastoplastica additiva, 3.500 euro, poi il divorzio. E quando la coppia arriva al capolinea, lui presenta il conto: non posso più trarre beneficio da quel regalo. Chiede il rimborso. Affare fatto, ma con prezzi di saldo, la metà esatta. E allora votate su radio24.it. Filippo Areggi ride dall'altra parte del vetro, contento per questa storia del secolo XIX. Allora, vi chiediamo: i genitori non pagano la retta della mensa, è giusto lasciare i bimbi con un pranzo da serie B nelle mense scolastiche? Radio24.it, ne parliamo dopo GR24.